Non si potrebbe semplicemente constatare che dopo 2000 anni il cristianesimo si è semplicemente esaurito, esattamente come nella storia delle civiltà è accaduto anche ad altre grandi culture? Lo si potrebbe pensare guardando con superficialità e restringendo l'orizzonte al solo mondo occidentale. Ma se si osserva con più attenzione, ed è quello che mi è possibile fare grazie alle visite dei vescovi di tutto il mondo e anche ai tanti altri incontri, si vede che il cristianesimo in questo momento sta sviluppando anche una creatività del tutto nuova. In Brasile, ad esempio, da un lato si registra una forte crescita delle sette, spesso molto equivoche perché promettono sostanzialmente ricchezza e successo esteriore. Dall'altro si assiste anche a grandi rinascite cattoliche e ad una dinamica di fiorire di nuovi movimenti, come ad esempio gli Araldi del Vangelo, giovani pieni di entusiasmo per aver riconosciuto in Cristo il Figlio di Dio e vogliosi di annunciarlo al mondo. Il Vescovo di San Paolo mi ha detto che in quella città si assiste a un germogliare di sempre nuovi movimenti cattolici. C'è dunque una forza di cambiamento e di nuova vita. Oppure pensiamo a quello che la Chiesa significa per l'Africa. Nello smarrimento e nella distruzione delle guerre spesso è l'unica cosa che rimane, l'unico rifugio dove c'è ancora umanità, dove si faccia qualcosa per le persone. Essa si impegna affinché la vita possa continuare, affinché ci si curi dei malati, affinché i bambini possano nascere e ricevere un'educazione. Essa è forza di vita che continua a creare nuovo entusiasmo e dalla quale scaturiscono vie nuove. Anche da noi in Occidente c'è un fiorire di nuove iniziative cattoliche, forse meno evidenti, ma pur tuttavia innegabile. Sono iniziative che non sono disposte da una struttura, da una burocrazia. La burocrazia è consumata e stanca. Sono iniziative che nascono dal di dentro, dalla gioia dei giovani. Il cristianesimo forse assumerà un volto nuovo, forse anche un aspetto culturale diverso. Il cristianesimo non determina l'opinione pubblica mondiale, altri ne sono alla guida, e tuttavia il cristianesimo è la forza vitale senza la quale anche le altre cose non potrebbero continuare ad esistere. Perciò, sulla base di quello che vedo e di cui riesco a fare personale esperienza, sono molto ottimista rispetto al fatto che il cristianesimo si trovi di fronte ad una dinamica nuova.